9 in punto di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. 9 e un minuto, a dire la verità. Oggi parliamo di famiglia, del tema della famiglia in questa società italiana. La famiglia, che è considerata anche per la Costituzione un nucleo centrale, fondamentale della società, ha però molti problemi. Ha molti problemi perché le famiglie italiane fanno pochi figli, perché le donne italiane hanno una percentuale di partecipazione al lavoro molto minore di quella degli altri paesi, perché i figli rimangono a lungo all'interno della famiglia, hanno difficoltà a sposarsi, a fare delle nuove famiglie, e quindi la famiglia per tanti aspetti è un problema critico, un problema che riguarda appunto la visione della società, i valori personali, ma riguarda anche le politiche di welfare, le politiche di assistenza sociale, le politiche di programmazione di quanto si deve fare per far crescere la società, una società italiana che anche da un profilo economico è una società ferma, una società che qualcuno, anche se non siamo d'accordo, descrive come una società in declino. Allora, quali le risposte che si può dare, che si possono dare alle esigenze di far crescere la famiglia, di far crescere la società, di far crescere appunto la volontà di guardare al futuro in termini costruttivi, in termini propositivi, in termini che possano affrontare questi problemi e permettere anche alla realtà italiana di stare al passo con quella degli altri paesi a livello di crescita economica, sociale, ma soprattutto a livello di crescita personale, di crescita di valori capaci appunto di affermare questa realtà e di realizzare quella coesione sociale che è uno dei punti forti di ogni società. Eccoci a 9 in punto, buongiorno da Gianfranco Fabi. Oggi parliamo di famiglie, welfare, della realtà della famiglia italiana nella società italiana. Una famiglia che ha qualche problema di assetto sociale, soprattutto in una prospettiva demografica. L'Italia ha molte particolarità, non vogliamo dare un giudizio di valore, poi magari i nostri ascoltatori che chiameranno all'800 24 0024 oppure 349 238 6666 per gli sms potranno dare loro un giudizio di valore, ma ha molte particolarità rispetto agli altri paesi. Ha il minor numero di figli per donna, ha la più alta età in cui le donne hanno il primo figlio, ha una prospettiva di vita più alta degli altri paesi, e questo è un dato io che ritengo che tutti possiamo considerare positivo, però ha appunto il tasso di fecondità femminile più basso di tutti gli altri paesi, ha il tasso di partecipazione al lavoro delle donne più basso di tutti gli altri paesi. Un solo dato: l'Italia sul tasso di occupazione femminile è poco più del 50% rispetto a oltre l'80% di Norvegia, Danimarca, Svezia, paesi appunto del nord, ma rispetto anche al 70% di Francia e Belgio. Allora parleremo di questi temi, delle politiche per la famiglia, della realtà sociale della famiglia italiana e delle sue prospettive con alcuni ospiti che vi presento subito. Jean-Marie Delbo è qui con me in studio. Buongiorno Jean-Marie. Buongiorno. Jean-Marie è responsabile del settore norme e tributi del Sole 24 Ore, e abbiamo Francesco Billari. Buongiorno professor Billari. Buongiorno dottor Fabi, buongiorno agli ascoltatori. Insegna demografia all'Università Bocconi. Abbiamo Cristiano Gori. Buongiorno professor Gori. Buongiorno direttore, buongiorno agli ascoltatori. È professore di politica sociale all'Università Cattolica di Milano, alla London School of Economics di Londra. E il professor Alessandro Rosina. Buongiorno Rosina. Buongiorno a tutti voi. Professore di demografia alla Cattolica di Milano e autore del libro Famiglie Sole, insieme ad Alessandra Del Bocca, Sopravvivere con un welfare inefficiente. Ecco, un libro che già dal titolo Famiglie Sole dà già un giudizio. Perché Famiglie Sole, professor Rosina? Sì, perché se si confronta la situazione italiana con quella degli altri paesi, ma anche se si ascoltano poi le famiglie italiane, le loro difficoltà, i loro problemi, la loro sensazione, ma anche appunto i dati, gli indicatori lo confermano, è che si trovano sole, cioè meno aiutate dal sistema di welfare pubblico nelle responsabilità familiari, cioè nell'essere aiutate a mettere in atto quei comportamenti che sono auspicati livello individuale, ma possono anche essere virtuosi a livello sociale, come quello appunto dell'avere figli, del conciliare i figli con l'occupazione femminile, quello dell'autonomia dei giovani, la stessa insomma ripartizione della spesa per protezione sociale in Italia, insomma lo testimonia in maniera molto chiara sul fatto che ci sono questi squilibri e appunto le famiglie, le nuove generazioni sono molto meno aiutate e una quota consistente, molto di più che negli altri paesi, viene fortemente assorbita dalle pensioni in un paese che sta invecchiando molto di più rispetto agli altri. Quindi si spende molto per gli anziani e si spende poco per i giovani, per i bambini e per far crescere le famiglie. Ecco, professor Gosina, quindi è un insieme di difficoltà dal punto di vista fiscale, dal punto di vista assistenziale, dal punto di vista anche logistico sul fronte delle strutture che aiutano le famiglie. Sì, sì, no, poi c'è anche la questione appunto dei servizi, sia per gli anziani non autosufficienti, sia per i bambini piccoli da 0 ai 3 anni, cioè anche lì se si va a vedere quanto le famiglie possono contare in Italia su questi servizi, che poi sono cruciali per conciliare occupazione femminile e fecondità, ripetiamolo, come giustamente ha detto lei, c'è questo paradosso italiano, noi ci troviamo sia con più bassa fecondità rispetto agli altri paesi, che ormai è una persistente bassa fecondità, perché ormai da lunghissimo tempo ce la portiamo dietro, con quindi le implicazioni che ha sulla struttura poi per l'età della popolazione e sui rapporti tra anziani e pensionati e popolazione occupata, e appunto la possibilità e l'occupazione femminile, quindi bassa fecondità, bassa occupazione femminile e aggiungerei anche più alto rischio di povertà per le famiglie con figli. E c'è tutto un insieme quindi di aspetti che riguardano l'aspetto fiscale, l'aspetto dei servizi e quindi la possibilità delle famiglie poi di difendere, anche di contare sui servizi, di essere aiutate dallo Stato, ma anche di difendersi dalle difficoltà economiche potendo contare su un doppio stipendio, cosa che appunto si può fare solo conciliando occupazione femminile, occupazione di entrambi, diciamo, i membri della coppia e l'avere figli, che in Italia diventa molto più difficile rispetto agli altri paesi. Ecco, io vorrei chiedere al professor Gori, che osserva molto da vicino la politica sociale proprio sul fronte dei servizi, degli aiuti concreti, quelli che sono gli asili nido, quelli che sono i supporti operativi che possono arrivare alla famiglia, come è piazzata l'Italia rispetto agli altri paesi. Professor Gori. Allora, io penso che il professor Rosina abbia già evidenziato chiaramente i problemi per quanto riguarda i servizi, che sono sia i servizi per i bambini rivolti alla prima infanzia, ai bambini piccoli, che agli anziani. La domanda diventa: che cosa fare? Con riferimento agli asili nido, negli altri paesi europei, dalla metà, diciamo, degli anni 90 in poi, paesi di destra, di sinistra, di varie, con governi di varie vari orientamenti, la scelta è stata quella di costruire robuste politiche nazionali per sviluppare gli asili nido, perché tradizionalmente in Italia, come all'estero come in Italia, gli asili nido sono una responsabilità dei comuni. Arriva un punto in cui, se si vogliono sviluppare ulteriormente, è necessario che anche lo Stato faccia la sua parte. Questa è la tendenza europea, dalla Spagna alla Francia, alla Scandinavia, alla Germania, degli ultimi 15 anni. Ed è un tema di cui si è iniziato un'esigenza, quella di una politica nazionale per gli asili nido, di cui si è iniziato a parlare in Italia negli ultimi anni. Il governo Prodi ha attivato il piano Nidi 2007-2009, che era un primo piccolo contributo, perché erano 100 milioni di euro all'anno, quindi una misura di natura prevalentemente simbolica, che però serviva ad attivare questa misura e ad attivare i meccanismi di una politica nazionale, un sostegno dello Stato ai comuni su questo fronte. E adesso viviamo una fase particolarmente importante, perché proprio con la finanziaria che si decide entro fine mese, l'attuale governo dovrà decidere se rinnovare questo piano Nidi, perché il piano Nidi appunto scade con la fine di quest'anno, e quindi in questo modo se e cosa fare per sviluppare i servizi alla prima infanzia. Ecco Gori, questo anche perché è vero che poi le statistiche sono sempre una media, denotano che l'Italia è a livelli inferiori appunto di altri paesi anche come dotazione di infrastrutture, però se poi andiamo a vedere l'Italia nel suo spaccato vediamo che è ancora più forte il divario per regioni come il Meridione, dove per esempio sugli asili nido la presenza è poco più che simbolica. Gori. Sì, però qui secondo me bisogna distinguere, è vero l'aspetto del meridione che è particolarmente debole, è vero però che anche le regioni più forti, quelle che hanno più del 30% di bambini nei nidi, pensiamo Emilia Romagna, Toscana, hanno bisogno di una politica nazionale, e questo fa proprio parte, diciamo, delle responsabilità che dovrebbe assumere l'amministrazione statale, e questo è dimostrato da tutti gli studi e da quello che fanno e da quello che realizzano gli altri paesi. Peraltro, sull'aspetto dei nidi, secondo me è da notare che si tratta di politiche pubbliche assai poco costose per il bilancio, perché oggi lo Stato spende lo Stato, nel senso l'amministrazione pubblica nel suo insieme, spende lo 0,1% del PIL in spesa pubblica per i nidi, rispetto alla spesa per il welfare che è il 26%. Sembra un po' poco così, proprio occhio e croce. Io vorrei chiedere al professor Billari, ringraziando il professor Gori, comunque resti con noi, al professor Billari, che demografo, sulle prospettive demografiche dell'Italia. Sono arrivate anche nei mesi scorsi delle notizie contrastanti. Si diceva appunto l'Italia è in un paese di declino demografico, poi ogni tanto si dice sì, però c'è qualche segnale di inversione di tendenza, magari provocata dal fatto dell'integrazione degli immigrati e così via. Può in breve dire a che punto è la prospettiva demografica dell'Italia, professor Billari? Ma diciamo che la prospettiva demografica ce la costruiremo noi. Il declino della popolazione complessiva e in età lavorativa che era stato previsto durante i primi anni 2000 non si è verificato, anche e soprattutto grazie all'immigrazione. Dall'altra parte, quello che sta cambiando è che il numero di figli per donna che lei ha citato è passato da livelli di record negativo mondiale a livelli molto bassi, ma comunque non più bassi come un tempo. Quindi abbiamo 1,4 figli per donna a livello nazionale. La cosa più interessante è che si fanno più figli al nord che non al sud, e questo può essere collegato anche ad alcuni aspetti che hanno toccato il professor Gori e il professor Rosina. Laddove ci sono delle politiche, evidentemente si torna a fare figli, quindi la prospettiva dipende da noi. Quindi c'è una incidenza della politica, non sono solo scelte strettamente personali, quelli di fare una famiglia, di fare un figlio, magari soprattutto di fare più di un figlio, professor Billari. Certamente, per fare dei figli, soprattutto più di uno, abbiamo bisogno di una prospettiva di lungo periodo, di una società che ipotizziamo buona per i prossimi anni. In questo senso i dati che vediamo oggi dentro l'Italia sono molto chiari. La crisi demografica è soprattutto al meridione. Il nord si sta piano piano riprendendo. Una parte di questo è certamente dovuta all'immigrazione, e attenzione che l'immigrazione ci mostra anche come è attraente una società. Un'altra parte è dovuta ai tentativi, soprattutto attraverso i servizi, di far conciliare lavoro e famiglia. Ecco, in questa prospettiva le politiche sull'immigrazione, le politiche di integrazione stanno portando anche a un cambiamento sociale, cioè diceva in parte questa modifica del tasso di crescita demografica è dovuto all'immigrazione, quindi diventa ormai un elemento strutturale di crescita della società italiana, professor Billari. Allora, come altre società avanzate europee ci troveremo di fronte a una popolazione eterogenea. In realtà la nostra cultura era abbastanza eterogenea già prima dell'immigrazione. L'eterogeneità diventa poi difficile da gestire per quanto concerne le politiche, cioè possiamo avere preferenze diverse rispetto all'educare i figli, a quanti figli avere e così via. La realtà odierna è che non potremo trovare un modello unico di gestione che vada bene a tutti in una popolazione eterogenea, e l'immigrazione ovviamente aumenta l'eterogeneità della popolazione. Indubbiamente anche questo può essere visto come un valore, come una possibilità, come qualcosa comunque di cui tener conto e comunque con cui la società deve fare i conti per vedere appunto una prospettiva di coesione sociale il proprio futuro. Io vorrei chiedere a Jean-Marie Delbo, ricordo responsabile norme e tributi del Sole 24 Ore, sul fronte degli altri interventi, non solo di carattere appunto operativo, sociale, di asilino, ma anche sul fronte per esempio fiscale. Si sta muovendo qualcosa per attuare una politica della famiglia in Italia? Del Bo. Allora, Diciamo che per partire dal 2008, cioè all'inizio della nuova legislatura, si può dire che il dibattito ha avuto un breve momento di interesse sulla ipotesi dell'introduzione del quoziente familiare previsto in campagna elettorale e discusso in campagna elettorale, oppure sulla più semplicemente ritorno dal sistema delle agevolazioni con detrazioni alle agevolazioni con deduzioni. In realtà però la situazione si è un po' bloccata, con l'alibi o la ragione della crisi che ha drenato le risorse disponibili verso altre direzioni. Quindi in sostanza il progetto di grande riforma per il momento è stato accantonato e si è proceduto a tutta una serie di micro interventi che non erano strettamente fiscali, che avevano una ricaduta sulla famiglia, ma che in molti casi non erano indirizzati alla famiglia specificamente. Facciamo due esempi, giusto per... Uno è stato la definitiva abolizione dell'ICI, che però ha riguardato una fascia ridotta di soggetti perché molti già l'ICI non la pagavano più, oppure l'ampliamento della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, essenziale in un momento di difficoltà anche per consentire una continuità di reddito per i nuclei familiari, ma evidentemente ispirata ad altre ragioni che solo in parte sono quelle della tutela della famiglia. Però è stato realizzato un bonus famiglia del È stato realizzato un bonus famiglia, adesso si vedrà se questo bonus famiglia avrà un seguito. In realtà però questi interventi sono, come la social card, sono stati interventi mirati a determinate situazioni di difficoltà o sofferenza e quindi quasi come dei sostitutivi di un disegno più complessivo che non si è riusciti per il momento a mettere sul tavolo. Ecco, in questa prospettiva io vorrei chiedere... Anzi, sì. Forse un'aggiunta si può fare ed è un po' paradossale ed è di questi giorni. A vedere anche il numero di richieste di chiarimenti che noi stiamo ricevendo, si può dire quasi a titolo di provocazione che uno dei più importanti interventi a garanzia o ad aiuto della famiglia è la regolarizzazione di colf e badanti. Certo, tra l'altro su cui il Sole 24 Ore ha in questi giorni proprio un supplemento che illustra tutte le soluzioni e i problemi del caso. Io appunto volevo chiedere al professor Rosina, proprio in una prospettiva internazionale, nel libro appunto Famiglie Sole si fanno molti confronti internazionali, quali sono i punti di maggiore differenza della realtà italiana rispetto alle politiche familiari che si fanno in altri paesi, in particolare nei paesi del nord che tradizionalmente hanno una forte politica familiare, ma anche in paesi molto più vicini, paragonabili all'Italia, come la Francia, che invece ha una realtà di crescita anche demografica molto più forte, molto più avanzata di quanto sia in Italia. Professor Rosina. Beh, guardi, su qualsiasi aspetto noi possiamo confrontare le politiche e le misure a favore delle famiglie, l'Italia è assolutamente, come dire, indietro rispetto agli altri paesi, cioè si fa molto meno rispetto agli altri paesi, e questo appunto giustifica il fatto di considerare le famiglie sole che in qualche modo devono arrangiarsi. Riguarda l'aspetto fiscale, ad esempio la Francia è appunto un riferimento da questo punto di vista, c'è il quoziente familiare, le famiglie sono molto più generosamente aiutate dallo Stato, il fatto di avere un figlio in più è meno, come dire, disincentivante, razionalmente più sensato rispetto all'Italia, dove appunto c'è uno svantaggio così forte che diventa irrazionale fare figli, il rischio di povertà quindi delle famiglie numerose è più basso, più contenuto, quindi sono più aiutate, e poi c'è appunto l'aspetto dei servizi, e anche su questo aspetto, lo dicevamo prima, ma è un aspetto cruciale, cioè anche qui se ci confrontiamo con gli altri paesi, i servizi su cui possono contare le famiglie, in particolare gli asili nido e non solo, insomma siamo su livelli molto più bassi, non solo rispetto a quell'obiettivo del 33% di Lisbona, ma rispetto insomma alla media europea, rispetto agli altri paesi. È vero che c'è una forte eterogeneità eterogeneità territoriale in Italia, e questa però dovrebbe illuminarci anche all'interno del territorio italiano, non solo quindi nel confronto con gli altri paesi. Cioè esiste una relazione ormai da qualche decennio, che quindi ha cambiato quello che era in passato, di relazione positiva tra occupazione femminile e fecondità. Cioè nei paesi dove è maggiore l'occupazione femminile è maggiore anche la fecondità, ovviamente questo sostenuto da politiche adeguate, da strumenti di conciliazione adeguati. Ma questo sta diventando sempre più vero anche in Italia, come sottolineava il professor Billari. Quindi questo è un percorso che timidamente abbiamo iniziato a percorrere, perché effettivamente anche in Italia ormai da qualche anno le regioni e quindi gli ambiti territoriali dove maggiore è l'occupazione femminile, la fecondità è aumentata un po' di più anche al netto dell'immigrazione, e rispetto invece ai paesi dove più bassa, le regioni insomma dove più bassa è l'occupazione femminile, e guarda caso sono proprio anche gli ambiti territoriali dove le misure per la famiglia e i servizi per la famiglia si è investito un po' di più e sono un po' più disponibili. Quindi questo è proprio un percorso da attivare, che deve andare in quella direzione, che poi è cruciale, perché appunto cioè investire sulle misure di conciliazione, sui servizi, vuol dire anche creare un modello di sviluppo migliore per tutti, perché vuol dire consentire alle coppie di fare più figli, dare la possibilità quindi all'evoluzione demografica di essere meno squilibrata, dà possibilità alle famiglie di poter contare su un doppio reddito, dà la possibilità di sfruttare, di non quindi perdere ma valorizzare l'occupazione, quindi l'apporto attivo femminile. Certo, tanti elementi che compongono una prospettiva di società in crescita che guarda appunto al futuro, che sa costruire anche nuove risorse, nuove opportunità di crescita. Grazie, torniamo a 9 in punto, stiamo parlando di politiche per la famiglia. Ringrazio quanti ci mandano i messaggi sms 349-238-6666, non mancano messaggi critici sulla nostra impostazione. C'è chi dice siamo ormai in troppi, è bene non fare troppi figli, è bene che si dica di non fare figli. Ci sono altri che dicono è una virtù appunto il fatto di non crescere più, dove siamo cresciuti fin troppo. Non posso dichiarare immediatamente di non essere d'accordo, ma possiamo dare atto anche di queste posizioni. Altri che dicono è bene spendere per gli anziani, per le pensioni, chi va in pensione libera un posto di lavoro per i giovani. Anche questa è un giudizio opinabile, ma che comunque ne prendo atto. Altri appunto sottolineano non ci sono prospettive di crescita economica e quindi si rinuncia ad avere delle famiglie numerose. Altri che dicono le provvidenze ci sono, ma sono riservate a chi è povero povero, a chi magari è evasore fiscale, basta prendere 20.000 euro e non si è certo ricchi e non si hanno più diritto a certe provvidenze. È vero Jean-Marie Delbo? Questo è un problema decennale. Il fatto è che, come sappiamo, il nostro sistema fiscale ha un problema di infedeltà che trascina nel tempo, ed è chiaro che facendo riferimento all'indice reddituale per le prestazioni si corre il rischio di incorrere in queste situazioni difficili da gestire. Però molte volte sono stati introdotti dei nuovi meccanismi, gli indicatori della situazione economica, che dovrebbero temperare l'effetto della infedeltà fiscale. Certamente. Vittorio da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Per l'argomento, che è molto interessante. Io ho ascoltato un po' i vari interventi e devo dire che nel mio microcosmo non mi riconosco al 100%, non vedo tutti questi aspetti. Qual è il suo microcosmo? Io vivo in una cittadina in provincia di Varese, cittadina di 90.000 abitanti, dove ci sono 7 asili nido comunali e 3 asili nido privati. Tutti che funzionano molto bene, sia per l'apporto da parte del comune, ma anche e soprattutto per il volontariato espresso dai genitori dei bambini. Io ho 2 figli che sono usciti adesso dal giro dei nidi, adesso stanno andando all'asilo, e comunque i genitori stessi si prodigano per fare in modo che le cose funzionino. Non so, abbiamo ripitturato le pareti piuttosto che delle piccole autotassazioni per poter far girare meglio la macchina. Però il servizio c'è, il servizio funziona. Io non lo so dire in Italia c'è il problema dei nidi, probabilmente c'è il problema dei nidi in qualche insieme che va meglio identificato. Certamente, in alcune zone anche per l'iniziativa di alcuni, anche per la responsabilità privata, certi problemi sono meno forti o non ci sono rispetto ad altre zone. Bruno dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io invece ho avuto la malaugurata idea insieme a due soci di mettere su un asino nido 0-3 anni in provincia di Milano. E devo dire che è stato veramente veramente difficile, giusto per passione lo si fa, perché una burocrazia mostruosa, tanto per dirne una, ti obbligano a mettere una passerella per l'handicap per un asilo nido 0-3 anni, cioè come obbligare a mettere una passerella per un campo di calcio per far andare i disabili a giocare a calcio, è assurdo. Nessun aiuto da parte dello Stato, una burocrazia tremenda, costi assurdi e voglio dire nessuna interesse né da parte della regione, provincia o comune nel, come dire, aiutare delle persone che comunque danno un servizio. Basterebbe banalmente evitare che lo Stato ci guadagnasse sopra riguardo alle tasse. Grazie per questa testimonianza. Io sentirei subito Cristiano Gori su questo tema degli asili nido, sulla possibilità delle iniziative appunto particolari, però sottolineerei che magari la passerella non tanto per l'handicap ma per le carrozzine o per i passeggini, dato che i bambini da 0 a 3 anni almeno fino a un anno e mezzo camminano poco, forse potrebbe essere utile. Cristiano Gori. Sì, su questo ultimo punto penso di essere d'accordo con lei. Per quanto riguarda l'intervento da Varese, diceva che in questo paese ci sono molti asili nido, però penso che rientri nel caso delle eccellenze locali, perché secondo gli ultimi dati Istat la media di posti nella Lombardia del suo insieme per gli asili nido è poco sopra il 20% dei bambini tra 0 e 3 anni. Quindi anche in Lombardia comunque è poco più di un bambino su 5. Quindi magari c'è anche una Lombardia del Nord, quella in provincia di Varese che ha tanti asili nido, una Lombardia del Sud, non so se Pavia o Mantova, che ne ha meno. Fino a Varese, questa località che è stata citata, dove esiste una tradizione municipale particolarmente attenta a questi temi. Questo appunto l'Italia è poi anche fatta di molte realtà locali di eccellenza. L'altro aspetto, per quanto riguarda lo sviluppo dei nidi, un aspetto appunto da evidenziare è che in realtà sarebbe una politica realizzabile a costi molto bassi per lo Stato e in questi ultimi anni sono state rese note molte proposte che prevedono un incremento graduale degli stanziamenti, cioè è giusta ovviamente l'obiezione che non è questo il momento di fare grandi politiche espansive di spesa pubblica, però l'esecutivo in una prospettiva di 4 anni di legislatura che ancora ci sono potrebbe progettare ogni anno un piccolo incremento di stanziamenti rispetto all'anno precedente nell'ambito, diciamo, di quello che potrebbe essere un piano di legislatura per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia. Ecco, ci sono molti sms, c'è anche una telefonata poi caduta la linea, che insistevano sul punto demografico un po' complessivo, dicendo siamo in un momento di sovrappopolazione, ormai il mondo è troppo abitato, è inutile continuare a parlare della necessità di fare figli, dobbiamo tener conto di delle politiche invece sulla popolazione che mantengano una sostanziale stabilità anche per le compatibilità ambientali. Ora vorrei chiedere al professor Billari se non rischiamo di fare di ogni erba un fascio. Certamente ci saranno dei problemi di sovrappopolazione in Asia, ma non è riducendo appunto l'incremento demografico in Italia che risolviamo questi. Comunque, professor Billari, che di professione fa il demografo? Proviamo a pensare che alcune delle riflessioni degli ascoltatori siano corrette, cioè non è detto che avere 60 milioni di abitanti sia la situazione ottimale per l'Italia. Ci sono però due modi per avere una decrescita demografica. Uno è avere una decrescita brusca e un altro è avere una decrescita molto lenta e ordinata. La decrescita brusca ha dei costi sociali ed economici elevatissimi, perché si ottiene solamente facendo pochi figli o avendo molti morti. E in questo modo la struttura della popolazione diventa, se facciamo pochi figli, piena sostanzialmente solo di persone anziane. Se facciamo molti morti, abbiamo avuto secoli di guerre in cui la popolazione calava con aumenti della mortalità. Un livello di fecondità attorno a 1,8-1,9 figli per donna, quindi non necessariamente 2 che rappresenta il magico equilibrio, ci potrebbe consentire un calo ordinato. Quindi il problema è la velocità del calo. Se anche vogliamo un calo, un calo molto veloce è intollerabile dal punto di vista economico e sociale. Ecco, grazie professor Biller. Appunto, bisogna tenere conto anche della realtà delle fasce di età della popolazione complessivamente. Su questi temi è bene appunto andare ad esaminare le evoluzioni complessive e la realtà dell'equilibrio sociale complessivo. Laura da Milano, buongiorno. Laura da Milano. Grazie per questa opportunità, proprio in quest'ultimo mese devo assolutamente diffondere questo mio pensiero. È per questo che mia cugina, che vive in Germania da ormai 15 anni, a 43 anni ha fatto il terzo figlio. Lei lavora nell'università, anche suo marito insegna all'università. E gli ho chiesto quest'estate, che è venuta qui in vacanza, ma spiegami bene, come mai in Germania, in Francia, ovunque io vada, qua in Europa, vedo che le famiglie hanno minimo 3 figli. Da noi invece prima era minimo 2, adesso l'1 è quasi la regola. Spiegami bene cosa ci sta dietro, perché non penso sia solo un assegno per la famiglia. Infatti mia cugina non mi sapeva nemmeno precisamente dire, dal punto di vista economico, quanto questo gli fosse di vantaggio. Ho fatto 2 conti, perché loro hanno un sostegno a seconda del numero del bambino, della fascia di reddito, hanno un minimo, un massimo, eccetera. Però aveva tipo un assegno circa, non era nemmeno lei sicura, di un 700 euro. Però mi ha detto, guarda, il motivo per cui noi facciamo figli, io forse, ti giuro, non l'avrei mai fatto anche il terzo figlio, ma forse nemmeno il secondo, perché qui è tutto difficilissimo. La vita di tutti i giorni, anche solo andare in un bar, andare in un esercizio pubblico, ho il bambino a cui devo cambiare il pannolino, non so dove mettermi, e devo portare i bambini a scuola, là con la bicicletta mi muovo in un attimo. È tutto più faticoso. E allora mi è venuto in mente il grande imbarazzo che ho avuto qualche anno fa con mia cognata, che è americana, vive a New York, mio fratello vive lì, quando devo nominarlo all'acquario di Genova, dovevamo cambiare tutti e due il pannolino al bambino, c'era un bagno col fasciatoio, alla fine ci hanno aperto un bagno un po' più grande per cambiare il pannolino, però uno solo, perché è già un'eccezione, quindi ti ritrovi sempre ad avere anche dei piccoli ragazzi come fossero grazie Laura per questa testimonianza. La nostra società è una società in fondo in cui i bambini non sono considerati come parte, spesso sono considerati come un intralcio. In altri paesi si vede molto spesso appunto che ci sono luoghi, servizi reali anche per chi ha dei bambini. Bentornati a quest'ultima parte di 9 in punto. Un'ultima ascoltatrice nella terza parte ci ha detto come in altri paesi, in Germania, negli Stati Uniti, la vita per chi ha dei figli sia facilitata da molte strutture, da molte realtà. Abbiamo fatto l'esempio della Francia. Abbiamo in linea Leonardo Martinelli. Buongiorno Martinelli. Buongiorno. Leonardo Martinelli, collaboratore del Sole 24 Ore da Parigi, e ci può dire rapidamente quali sono le differenze principali tra la politica della famiglia in Francia e quella italiana, o qual è appunto la politica della famiglia in Francia? Martinelli. Ma è una delle primi motivi, sicuramente principale, è pecuniario, nel senso che in Francia si consacrano tanti soldi alla politica della famiglia. Attualmente a livello annuo siamo a 83 miliardi di euro, quindi 5 punti percentuali del PIL, ed è una trasformazione questa che è iniziata alla metà degli anni 90, quando in Francia il tasso di fecondità era andato molto giù, e quindi per farlo ridecollare si era proprio deciso di aumentare i fondi e quindi anche gli assegni familiari. Quindi vuol dire che un legame, sentivo l'ascoltatrice precedente, in realtà un legame con i contributi che vengono dati in Francia si è visto, perché nel momento in cui si sono aumentati i contributi è aumentato anche la natalità e il tasso di fecondità, che ora in Francia, proprio i dati sono di pochi giorni fa, ha superato i 2 bambini per ogni donna adulta. Quindi la Francia dà degli aiuti economici, ma ha anche interventi sul profilo sociale. Si è parlato molto di asili nido. Allora, gli asili nido sono un problema anche in Francia. Da una parte va detto che negli ultimi 10 anni si sia passato sempre nell'ambito di questa politica familiare che è iniziata alla metà degli anni 90, questa nuova politica familiare, i posti nell'asilo nido sono aumentati da 150.000 a 300.000, ma sono assolutamente insufficienti. Hanno trovato i francesi una soluzione che non, diciamo, sulla quale esiste anche qualche polemica, sono le assistenti materne a domicilio, cioè delle badanti, diremo in Italia. Sì, forse è saltata la linea con Martinelli? Martinelli? No, non c'è più, che forse la linea con Parigi ha qualche problema, si spende molto per la politica fiscale, forse si spende un po' meno per la politica delle telecomunicazioni, comunque andiamo avanti su questo fronte, l'esempio francese. Io vorrei chiedere a Rosina appunto se l'esempio francese è l'esempio che l'Italia potrebbe seguire. Sì, perché c'è molto vicino alla Francia da molti punti di vista, non solo dal punto di vista fisico, ma anche per alcuni aspetti culturali, eccetera. Quindi senz'altro alcune delle scelte vincenti, perché alla fine da questo punto di vista la Francia si trova con una situazione molto migliore rispetto all'Italia. Teniamo presente che dal punto di vista demografico la struttura per età francese è molto simile a quella italiana, quindi loro ad esempio hanno un ammontare di popolazione non molto diverso dal nostro, ma la differenza non sta tanto nel fatto che noi abbiamo molti più anziani rispetto a loro, la differenza sta nel fatto che noi abbiamo molti meno giovani rispetto a loro come conseguenza della denatalità, quindi ci porteremo dietro dei costi dell'invecchiamento della popolazione, cioè con il fatto di non aver investito in politiche per la famiglia, come ha fatto la Francia, adesso noi ci troveremo come conseguenza dei costi di invecchiamento molto maggiori da dover pagare. Quindi alla fine la nostra scelta non è stata una scelta molto intelligente, molto lungimirante, certamente di sviluppo e di capacità, insomma, di creare le premesse per una crescita del paese. Teniamo presente poi che l'Italia non solo ha una fecondità bassa, un'occupazione femminile più bassa, incoraggia meno i giovani a diventare autonomi, investe meno in politiche sociali, eccetera, e familiari, ma ha anche dimostrato negli ultimi anni che questo poi ha delle conseguenze negative anche nella capacità di crescita economica del paese. Cioè siamo anche uno dei paesi che investendo, aiutando meno, quindi incoraggiando meno le scelte virtuose individuali e familiari, poi cresce meno rispetto agli altri. Certo, la crescita economica può essere poi il fatto che dà risorse aggiuntive proprio per finalizzate anche a una ridistribuzione del reddito, a una crescita complessiva della società. Senza crescita economica non c'è nemmeno crescita della possibilità di ampliare una spesa pubblica che resta fondamentale. Marco da Venezia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, ho 4 figli, la moglie per fortuna può stare a casa, quindi può dedicarsi a pieno tempo a loro. Volevo intervenire sul tema degli asili nido, ma secondo me adesso anche tanti in associazione condividono quest'idea. Una cosa importante è che molte mamme vorrebbero stare a casa col proprio bambino nel periodo diciamo da 0 a 1 anno, 2 anni. E che tra l'altro è anche il periodo dell'allattamento, e questo dal punto di vista politico non è capito. Secondo noi invece incoraggiare questo sarebbe economicamente conveniente, perché costruire e gestire un asilo nido non è una spesa da poco, piuttosto che fare questi investimenti vediamo più semplice dare un contributo alle mamme che stanno a casa, quindi allungare l'attuale periodo che è veramente veramente breve e quindi dare la possibilità della mamma che vuole bene al suo bambino di stargli vicino. Anche perché a sentire gli insegnanti delle scuole materne, la differenza tra i bambini dei bambini che vengono allevati dalla mamma e quelli invece che stanno in asilo nido, si vede il carattere del bambino che sta con la mamma è sicuramente più sereno, ma lascio questo ragionamento a chi è del settore, ecco. Io grazie di questa testimonianza, indubbiamente interessante. È chiaro che fino a 1 o 2 anni i bambini non socializzano molto, hanno forse più bisogno della vicinanza della mamma, poi l'asilo serve anche ad avviare una socializzazione, un'educazione, una capacità di stare in compagnia e di creare appunto dei rapporti sociali. Però su questo tema vorrei sentire Cristiano Gori. Sì, grazie. Io volevo dire appunto una cosa in proposito. L'ultimo ascoltatore penso che abbia evidenziato un punto importante, cioè che il nocciolo non è fare solo politiche di asili nido, ma costruire pacchetti di politiche che da una parte rafforzino i congedi, in particolare appunto per i primi mesi di vita del bambino, e poi dopo il primo anno di vita del bambino ci siano più nidi. Quindi credo che sia importante ragionare in termini di pacchetti di politiche per la prima infanzia. Diciamo, dire che sono più sereni i bambini che non sono andati nei nidi, ci andrei cauto, perché molti studi dimostrano, danno risultati anche di natura radicalmente opposta, quindi su questo utilizzerei un po' più di cautela. Un ultimo punto: abbiamo parlato molto di bambini, un'altra grande sfida delle politiche per la famiglia del futuro saranno gli anziani non autosufficienti, di cui ancora si parla veramente poco, perché in Italia si spende molto per le pensioni, ma il problema storico dell'Italia è che si è speso molto per il pensionato 58enne o oggi 63enne, mentre per l'anziano non autosufficiente con l'Alzheimer di 82 anni si spende molto poco. Quindi in questo senso la realtà italiana è una realtà in cui la famiglia è ancora un sostegno a livello di welfare anche per gli anziani, professor Gori. Sì, in questo diciamo c'è una coerenza tra la poca presenza pubblica nell'assistenza ai bambini piccoli e la poca presenza pubblica nell'assistenza agli anziani non autosufficienti. Diciamo, c'è una difficoltà a parlare di anziani non autosufficienti per il semplice motivo che nessuno di noi ama immaginare che un giorno egli stesso potrà essere un anziano, certo, non autosufficiente. Però, quindi, questo è anche provato da alcuni studi, rende difficile parlare nel dibattito pubblico, però è chiaramente un altro corno decisivo delle politiche per la famiglia in Italia. Mi sembra invece utile che si parli di questi temi che riguardano poi la qualità di vita di tutti, la qualità di vita degli anziani, ma la qualità di vita anche delle persone, quindi avere degli interventi, delle strutture, delle capacità anche di prevedere e di tener conto della necessità di tutte le fasce della popolazione è quello che deve fare una società che è previdente, che guardi appunto a un'equa distribuzione delle risorse. Il problema delle risorse viene portato molto in luce dai messaggi SMS che ci mandate. Lo Stato deve spendere meglio, questo è diciamo un po' un ritornello, però è una realtà. Lo Stato dovrebbe spendere meglio, dovrebbe utilizzare meglio i soldi che ha, soprattutto in un momento di crisi dove si dice i soldi sono pochi, però si continuano a non fare quelle riforme che possono tagliare spese improduttive, che possono invece portare a spese produttive, e indubbiamente le spese per le famiglie sono spese produttive perché aiutano lo Stato a crescere. Io vorrei un'ultima parola da Francesco Billari: è possibile pensare a un'inversione del trend demografico? Ma di fatto l'inversione in qualche modo c'è già stata. Provo a ribadire un punto fondamentale, che il problema cruciale della demografia italiana è il Sud. Le regioni del Nord e del centro hanno già avviato, anche come è stato detto dai colleghi e dagli ascoltatori, delle reazioni politiche e sociali che sono virtuose, quindi ci permetteranno probabilmente di andare verso una tendenza positiva. Per le regioni del sud il quadro è molto più fosco. A livello internazionale sappiamo che lo sviluppo economico, uno sviluppo economico sociale ordinato è favorevole oggi a un equilibrio demografico. Questo vale anche dentro l'Italia, quindi le politiche generali di sviluppo andranno anche verso una demografia più equilibrata. Bisogna pensare seriamente al sud. Ecco, questo è un tema, indubbiamente il mezzogiorno è un tema storico dell'Italia, è un tema però troppo importante per non essere continuamente affrontato e per non essere ribadito. Ringrazio anche il professor Billari per aver portato questa testimonianza, così come ringrazio Jean-Marie Delbos, Cristiano Gori, Leonardo Martinelli e Alessandro Rosina che ci hanno accompagnato in questo esame sui temi della famiglia italiana. Ne abbiamo parlato, abbiamo avuto anche messaggi di critica e di consenso. Parlarne vuol dire affrontare un argomento, dire che questo argomento è un argomento su cui avviare e mantenere viva una riflessione. Lo Stato è fatto da tutti noi, possiamo sempre migliorare tutti guardandoci, confrontandoci, cercando nuove idee, ma soprattutto avendo fiducia e speranza nel futuro. Grazie da Gianfranco Fabi, l'appuntamento è per domani.